got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, ancora una volta benvenuti a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che vi parla di identità e cucina e talvolta, come in questo caso, ha l'onore di avere un vero e proprio chef come ospite, uno chef con radici in un altro paese che rivisita la nostra tradizione. In questo caso abbiamo questa sera con noi Pietro Lehmann, benvenuto innanzitutto. Grazie, grazie dell'invito, buonasera. Pietro Lehmann è lo chef e l'ideatore di un ristorante a Milano, Gioia, il primo ristorante vegetariano europeo stellato, Stella Michelin. Come stare quindi alla larga da carne e pesce soddisfando anche il palato, no? Ed ha origini svizzere, è così? Sì, io sono svizzero di origine. In Svizzera non si sa molto, ma c'è una grande tradizione vegetariano, igienista, ci sono anche ristoranti molto tradizionali, storici, che fanno questo di cucina, ma anche la Svizzera è stata il natale di grandi personalità nell'ambito dell'alimentazione che prevenivano cucinando vegetariano e che sono anche famose, non so, per esempio uno è il dottor Birker, che è questa persona che ha inventato il Birker Muesli, che pensi a una ricetta della fine 1800, ma già si parlava allora di crudismo, quindi di fatto era una ricetta crudista e oggi è così molto in voga questo modo di mangiare, ma già allora se ne rifletteva, si parlava. Quindi radici svizzere che l'hanno aiutata anche a sviluppare la sua filosofia di cucina. Assolutamente sì, anche se diciamo poi nella mia vita ho viaggiato molto, mi sento tuttora un viaggiatore oggi più dentro che non all'esterno, ma ho vissuto a lungo in Oriente, questo per me è stato pregnante, soprattutto per capire che cosa desideravo veramente mangiare e cucinare, perché poi trovo che un cuoco deve sì guardare le sue radici, che sono fondamentali, ma anche capire che cosa veramente sia corretto per lui o che cosa voglia di mangiare lui, poi quello presentarlo ai clienti, altrimenti ci troviamo davanti a dei falsi in cui uno non è nel posto dove vive né chi è lui esattamente. E quindi l'Oriente mi ha dato questa, per me, apertura in cui ho capito cosa volevo essere vegetariano tra le tante cose e poi lo sono diventato e poi anche ho aperto il mio ristorante con quelle caratteristiche. I viaggi in Estremo Oriente che iniziano per lei a metà degli anni Ottanta e che si concentrano in Cina e Giappone, quindi sì. Esperienze sia in Cina che in Giappone. Sì, con poi anche un excursus importante in India. E, diciamo la Cina e il Giappone che mi affascinavano, anche perché io appunto come cuoco sono figlio degli anni 70-80, nasco lì. E a quei tempi c'era una cucina in voga in Europa, nell'alta ristorazione, che si chiamava Nouvelle Cuisine e che ha fatto delle cose importanti. Ad esempio la Nouvelle Cuisine ha portato la freschezza nei piatti o ha portato più verdure nei piatti, ha portato le cotture breve, quindi c'erano degli aspetti molto interessanti. E di fatto c'è stato un momento storico dove in ogni luogo in Europa si cucinava nell'alta ristorazione allo stesso modo. Questo per me era limitante, significava che non poteva essere o non c'era un'espressione dell'individuo, ma alla fine era diventata una sorta di moda e io stesso nella mia creatività mi sentivo frustrato da questo aspetto perché non volevo ripetere quel tipo di approccio. Poi quando avevo 20 anni, 22, ho sentito anche la chiamata al vegetarianismo perché mi sentivo d'indole così, quindi non mi andava bene di stare in ristoranti dove si cucinava in modo generalista e soprattutto al di là della carne in modo totalmente disarmonico dal punto di vista del contenuto alimentare. Ho deciso di partire per l'Oriente, che era un luogo che mi attirava molto e mi affascinava. Era un altro pianeta, era un altro mondo, l'approccio alla cucina di quei posti era totalmente diverso da quello che ho visto qui, anche l'approccio filosofico, e quindi non tanto il cambiare ciò che ero, ma quanto capire che potevano esserci altre realtà mi ha arricchito e mi ha trasformato. È un aspetto che io trovo importante perché poi viviamo un momento storico anche di campanilismi beceri che io sono, diciamo, sono mi fanno un po' rabbrividire anche, e di fatto il diverso arricchisce sempre. Noi dovremmo partire da quel presupposto e il diverso spesso si esprime nella cucina. Spesso si diciamo torniamo a fare le cose della nonna, della tradizione. Secondo me il tempo è cambiato davvero e c'è bisogno in questo momento invece di una totale apertura, pur non lasciando quelle che sono le nostre radici, ma le nostre radici sono assolutamente relative al tempo, al luogo, che tutto il tempo cambia, perché la nostra cucina italiana, se non fossero arrivati i pomodori dell'America, le patate, i peperoni, non esisterebbe nemmeno come patate, perché quello che mangiano i romani era totalmente diverso. Quindi, e allora abbiamo accettato culture diverse e è importante continuare a farlo. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo a parlare con lei del ristorante e della sua filosofia di cucina e anche di queste radici svizzero-orientali tra pochissimo. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Florenza ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Buona serata ancora una volta, siamo questa sera con lo chef Pietro Lehmann del ristorante Gioia Alta Cucina Naturale di Milano, primo ristorante vegetariano europeo ad aver ricevuto una stella Michelin nel 1996 ed unico ristorante stellato vegetariano della ristorazione italiana. Come si concilia quindi una scelta di chilometro zero invece che di gusti e prodotti vicini al territorio con l'apertura al mondo e anche con salvaguardare anche un gusto di alta cucina, perché Gioia è appunto un ristorante di alta cucina? Sì, bella domanda. Dunque, i due aspetti convivono, ad esempio nel mio ristorante è tutto biologico, ci sono contadini che lavorano per me, abbiamo noi stessi il nostro orto, nel quale coltiviamo anche cose come la mioga o come il basilico giapponese, il shiso, che però diventano nostri perché crescono nel luogo. E comunque lo scambio primo per me, come lo vivo io, è sulla cultura, quindi io non faccio cucina orientale, ma di fatto attingo da una cultura che mi affascina. Ad esempio, dal punto di vista della tecnica, i giapponesi sono i più bravi nel friggere, ad esempio, i cinesi sono molto bravi nel cuocere le verdure appena scottandolo, oppure nella pasta, in India sono maestri nelle spezie, questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista culturale, gli approcci sono diversi. Per esempio nello Zen il cuoco fa una cucina molto minimalista, enfatizzando i valori della natura, e io faccio questo nella mia cucina, quindi in qualche modo diventa una cucina Zen all'occidentale, ma non perché poi uso dei gusti loro, ma perché ho portato questo aspetto culturale che è importante. Invece la cucina cinese è molto più viscerale, molto immediata, che ci muove la pancia, e anche quello è importante in cucina, quindi non essere troppo intellettuali ma anche lavorare nel profondo in che cosa cuciniamo. Arricchisce il mio essere svizzero che ho il ristorante svizzero orientale a Milano. Lei ama definirsi anche, ho letto, architetto in cucina. Io sono credente, quindi la parte del spirituale, di quella spiritualità, per me è molto importante. Io penso che il sommo architetto sia il supremo. Noi viviamo una realtà che di per sé è già perfetta, e quindi il mio compito è quello di non alterarla, e poi è lo stesso che fanno anche nella cultura Zen, dove in pratica io sempre nella cucina, nella mia cucina, gioco con delle forme naturali che rappresentano la natura, delle forme geometriche che rappresentano la perfezione, come si riesce a farla, perché la natura è difficile imitarla, e poi inserisco sempre degli elementi di casualità, perché è un aspetto affascinante del creato, di quando noi guardiamo le stelle, che sembrano, le guardiamo e diciamo, ma è perfetto come sono situate nel cielo, e quindi questa è una casualità che ha un senso armonioso, come e dunque che inserisco sempre, magari facendo cadere dei petali su un piatto, oppure delle mandorle tritate, che in quel modo cadendo si ricollegano a questa armonia, ma di fatto io non faccio molto, attingo da ciò che c'è che già. C'è in natura. Se fossi un architetto, non cercherei di imporre chi sono io, quindi la mia personalità, per in qualche modo dominare l'ambiente che mi circonda, ma piuttosto sarei un architetto che cerca di entrare in empatia con esse. Questa è la chiave, il filo conduttore di tutta la mia cucina. E mi incuriosiva molto, fra le varie cose che ho letto nel suo menù, l'uovo apparente. Forse si vuole giocare a ricreare una realtà, no? C'è anche dell'ironia in questo. Sempre, diciamo, nella cucina, come io la penso, ci vuole un aspetto di leggerezza che è importante, perché se siamo già seri tutto il tempo, se lo siamo anche mangiando, diventa pesante. L'uovo apparente, in pratica io lo costruisco con altri gusti, con altri colori e senza uovo, ed è di grande impatto emotivo, perché poi è ricco di colore, di gusto, quindi è molto bello da vedere. Ma l'aneddoto poi divertente di questo uovo, che io tra virgolette l'ho inventato nel 96, quindi già tantissimi anni fa, ma tra virgolette perché poi, traducendo un testo dal cinese, di un gastronomo cinese UMA, ho scoperto che un uovo simile lo facevano già in Cina nel 1600. Un aspetto che trovo importante, quello che sento che il mio ruolo nel mondo presente è di lasciare un'impronta che possa dare beneficio a chi ne usufruisce, quindi non è un'impronta fine a se stessa, ma per andare incontro alla persona che mangia, che si pone, per migliorare ad esempio le condizioni del pianeta, degli animali, della salute, per le prossime generazioni. Io mi sento molto calato in quel ruolo. Io trovo che noi in questo momento abbiamo la responsabilità di migliorare il presente, oppure di fermare ciò che non va bene, per lasciare una buona eredità. In effetti questa scelta anche del vegetarianesimo è spesso interpretata come una scelta radical chic, elitaria, quando nel suo caso vuole essere anche una scelta etica. Se capisco bene, lei insieme alla Fondazione Veronesi sta promuovendo un'iniziativa per portare una dieta più sana nelle mense scolastiche. Mi è piaciuto anche molto l'iniziativa Il Buono che Avanza con il Comune di Milano. Sì, sì, assolutamente. Quindi attento ai temi etici. Sì, allo stesso tempo ho fatto una campagna con Essere Animali, che è un'associazione, siamo riusciti a togliere il foie gras dagli scaffali, quindi c'è sempre un, una presa di posizione precisa e poi negli anni sono diventato abbastanza credibile, quindi questo viene accettato più. Ma come si concilia questo senso etico, questa chiamata come lei l'ha definita, con dei prezzi che per loro natura, perché è un ristorante stellato, sono abbastanza alti per la gente comune, quindi si potrebbe pensare a prezzi e a scelte che non sono approcciabili da tutti? Dunque, questo è un aspetto che mi sono posto molto, perché a mio modo di vedere la cucina sana deve essere democratica e viviamo questo paradosso dove ciò che non è sano costa poco e ciò che è sano costa tanto ed è sbagliato per molti motivi, anche perché non sono fatti i calcoli giusti su ciò che costa poco. E un hamburger, se noi vediamo le conseguenze che questo dà rispetto all'ambiente, rispetto alla salute delle persone, dovrebbe costare non 3 euro, 150 euro per esagerare. E quindi ho riesaminato il mio modo di fare cucina al Gioia e ho reso ciò che faccio più democratico, nel senso che ad esempio a pranzo io ho un bistrò sempre nel ristorante, noi serviamo un menù dove c'è un piatto unico con un primo e un secondo, serviamo l'insalata, l'acqua e il caffè per 13 euro, oppure anche a mezzogiorno ci sono dei piatti anche nel ristorante gourmet che costano 25 e 40 euro, e poi anche ci sono tutti degli escamotage dove le persone se prenotano prima hanno dei forti sconti, oppure possono permettersi di mangiare. Da me è sempre possibile spendere poco o spendere tanto, quindi questa è una libertà che lascio a ogni avventura. Infatti una cosa che a me piace moltissimo è che arrivano tanti giovani anche a mangiare da me, che magari hanno risparmiato, che tirano fuori dal portamonete i 12 euro, però fanno questo sforzo e mi scalda il cuore. Mi dispiacerebbe se non avessi queste persone a mangiare che si sono impegnate per una scelta nel venire da me. E questo mi piace molto, perché poi se la relazione, come lei diceva, è solo per un'elite, già diventa settaria, diventa una scelta, diventa insomma, una che scelta che poco un po' popolare. Perché effettivamente al di là di quello che succedeva nei secoli scorsi, dove chi era benestante poi alla fine moriva di malattie come la gotta o altre cose perché mangiava troppo, oggi la persona benestante è molto attenta alla salute. Ma l'aspetto più interessante, che a me interessa di più, è l'aspetto culturale. Quindi di fatto oggi mangia meglio chi ha una buona cultura, e quindi bisogna assolutamente promuovere la cultura alimentare, come ancora diceva lei, per esempio nelle giovani mense. Generazioni, nelle mense, nell'insegnamento, e poi bisogna anche pensare che non tutti riescono a avere le informazioni giuste e quindi avere la cultura che gli serve per stare bene a tavola. In quel caso ci vuole un senso di responsabilità generale, dove io mi immagino nei supermercati dove venga spinto, venga promosso di più il cibo che fa bene, venga un po' tenuto nascosto quello che fa bene. Non mi riferisco solamente alla carne, ma per esempio anche agli zuccheri, che è un altro annoso problema che è troppo presente nel dieta. Chef Lehmann, ci racconta una ricetta che parla di lei? Sì, dunque, allora vi racconto una ricetta che è proprio delle mie radici, che è il rösti. Il rösti è un tortino di patate, mm-hmm. E ci vogliono delle patate buone, quindi in questa stagione ideale, che sono un po' maturate, quindi non troppo novelle. Poi nella tradizione svizzera queste patate vengono prima cotte, bollite e poi grattugiate. Invece nel mio caso parto direttamente dalla patata cruda, che taglio fine con una grattugia oppure con una mandolina, la salo leggermente, faccio perdere un po' della sua acqua e poi in una padella di ferro, oppure se non si ha una padella antiaderente, metto un pochino di olio e le inserisco dentro e le cuocio così. Ma l'aspetto più gourmet che poi in questa patata, che in Svizzera rimarrebbe così pulita e basta, io inserisco degli elementi di gusto, quindi diventa una sorta di tortino farcito di patate. Ad esempio in autunno abbiamo messo dei funghi porcini, adesso in inverno inizieremo a mettere dei carciofi con il nuovo menù, e l'elemento interno cuoce assieme alla patata e allo stesso tempo dà gusto a questa patata e la dà ricchezza, perché la patata di per sé è un elemento povero, ma tutti gli elementi poveri poi possono diventare molto raffinati, arricchendo con delle erbe, con delle cose. Poi questo tortino va arricchito con una salsa oppure con un formaggio. Noi facciamo al Gioia un formaggio di mandorla che è molto interessante, dove in pratica vengono messe a mollo delle mandorle, poi viene frullato tutto, la proteina è idrosolubile, quindi si scioglie nell'acqua e quell'acqua diventa un vero e proprio latte di mandorla che si fa cagliare come se fosse un formaggio fatto con latte di mucca o di capra. E questa cagliatura poi la si può arricchire in questa stagione si possono mettere di buoni pepi, magari un pepe del Sarawak, un pepe a coda, qualche cosa di profumato. In questa stagione come erbe non c'è più molto, ma per esempio il rosmarino come erbe aromatiche, tritato fino a fine e mescolato assieme. Poi a seconda di quanto, questo può diventare un vero e proprio quark, quindi le metto sopra una bella cucchiaiata ed è una cosa buona. Grazie a Pietro Lehmann per essere stato con noi stasera, per averci raccontato qualcosa di più di una cucina alla quale sempre più gli italiani si avvicinano. Il 7% degli italiani sono vegetariani, secondo i dati Eurispes, e l'1% vegani. E comunque anche per tutti coloro che non sono vegetariani è un'esperienza in più. Grazie chef. Evviva, grazie mille, saluti a tutti. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Se volete seguirci siamo ancora qui sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little, that's the glory of love.